non ti mi digna, me ti mi io la fica di che fonda giù il da freud mi Yo, the dark secret.